Il sabato del villaggio. Ci siamo alla terza ora del sabato del villaggio, quindi diamo il via al nostro RadioTube. YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. È la terza ora del sabato, è sempre la più bella. Buonasera, sì, Daniele. Sì, ma lo dici sempre. E perché anche lo a tutti. Penso, non è no. Vero, lo dico solo a te. Io ho preso un ascensore diverso da quello di Anastasia. Anastasia. Sì. E quindi non l'ho incontrata. Mi dispiace moltissimo di questo, donna, di questo disguido. Che donna. Daniele, che sai donna. Che se un ascoltatore in questo momento ci vedesse, sì. Cioè abbiamo davanti quanti device, cose. Quante cose no, stiamo guardando? No, neanche più bottigliette no. D'acqua che due device. PC, tre più tablet, voce che acqua. Due PC, tre tablet, due smartphone. Tu così. Controlli anche il WhatsApp. Controllo che anche appena... il WhatsApp 349-238-6666 che va bene anche per gli SMS. Io invece sono all'SMS perché sono vecchia maniera. Perché però tu sei vecchia maniera. Mi trovate, anzi ci trovate anche su il Twitter, ormai parlo come io. In tutto e per tutto. Il Twitter è @MartaCagnola, @DiBellasio oppure #RadioTube oppure #ISDV. Il sabato del villaggio. Daniele, eccoci cosa qua. Ti è piaciuto questa settimana? No. Che cosa ti ha appassionato? No, a me appassiona Filippo Facci. Io sto per farlo, lo annuncio. È un coming out clamoroso. No, questo è da anni mi appassiona come persona. No, perché Filippo Facci sta partecipando, sai, no? Sì, hai sentito? Sì, ho visto. Anzi, sta partecipando a una trasmissione che si intitola Monte Bianco. Per gli appassionati di montagna come me, io sono solo appassionato, è abbastanza da poltrona, nel senso che mi piace vedere loro. Tu sei il montanaro da Bombardino? No, ecco, Bombardino sì, sempre e comunque. Qualche passeggiata con le scarpe comode, sì. In piano. Io vado molto in alto e cammino molto in piano. Sì. La posso anche fare. Invece loro lì fanno delle però cose pazze. Sì, sci, ecco. Oggi ho preso gli sci, siamo pronti. Scio, però diciamo non a livello alpinistico. Invece in questa trasmissione c'è Caterina Balivo, giusto? Sì, sì? Certo, brava, cioè, che Caterina bravissima, che conduce. Poi tra l'altro lei sempre sta lassù. Però lei è sempre, c'ha un pile leggero, tranquillo. Ve l'hanno girato quest'estate, sì, certo, e lei certo. Probabilmente non è alle stesse. Cioè quando fanno le cose in studio non è alle stesse temperature. La tengono no, un pochino più al caldo. Deve condurre, è più difficile sì, invece sì, loro vanno, cioè non nello studio ma nella postazione in cui sono lei al e Simone calduccio, Moro sì. Che è stato a lungo anche una bella voce di Radio 24 Simone, quindi noi siamo sempre contenti di vederlo anche in TV perché ha fatto tanta strada e tutta ovviamente in salita perché sta sul Monte Bianco, quindi noi andiamo sul K2 l'anno prossimo. Ma dunque, come sta andando peraltro questa trasmissione? Sta andando discretamente, certo aveva sempre il fantasma di Pechino Express perché tutti tendono mannaggia. A sì, ma sai che ci arriva un siete bravi e simpatici, siete meravigliosi. Bello questo WhatsApp. Uomini o donne? No, perché lascerei un numero, un WhatsApp. Un uomo e una donna. Va bene, ok. Ok, allora dunque, queste trasmissioni, grazie, continuate a dirlo. Queste trasmissioni vanno lassù in alto, fanno degli esercizi pazzeschi, una specie di gare. A me piace quando. Ecco, allora ti faccio una domanda da appassionato di montagna. Io sono un po'. Da poltrona, però insomma, io invece sono Coleghette. Una che ha un po' paura della sì. Montagna, sono una paurosona. Due cose mi fanno paura: la montagna e le biciclette, il mio terrore massimo. Sono la i miei due e sport preferiti. E io mi fanno una paura vabbè, totale. Ma da appassionato di montagna, sì. Secondo te Monte Bianco fa bene o fa male? Ecco, fa benissimo secondo me. Ecco. Fa benissimo, a me è venuta una voglia pazzesca di iscrivermi al CAI, di ricominciare a fare quelle cose che si dicono a 30 anni, adesso finalmente faccio alpinismo. Cioè l'anno scorso dei compiuti 40 era la moto, quest'anno ora dei 50 ricomincio a giocare con le palline, con le biglie in spiaggia. Beh, vabbè. Che bello. No, secondo me fa benissimo. Stavo facendo una battuta, ti sto dicendo che ti avrei prestato. Siamo in diretta, sappilo. Sì. Le chiappe per fare la pista, però. Ah, si faceva quella cosa là bellissima. No, ordine, torniamo a Monte Bianco e sì. Alla ragione per cui tu sei un appassionato di Filippo Facci. No, io ecco, l'ho visto. È un appello pubblico, è matto anche è nella vita, lo sai, no? Ma però Io faccio un appello pubblico, lui deve venire qui a raccontarci i retroscena, anzi i retrovallata, i retro, anche perché qualcuno l'ho sentito orecchiato nelle... tra social, perché lì facevano sul serio, mica da ridere, eh. Per esempio in una delle ultime escursioni lui ha detto: ce l'abbiamo in diretta. Ce l'abbiamo. Allora mostriamo in mostriamo diretta la radio, cosa combina lo sguardo con... di Filippo Facci. Eccolo qua. Non muovo ancora, vai giù deciso e basta. No, no, io vado. Al mio fischio si parla. Siete pronti, i neri? Oh mamma. Cerchiamo perché siamo in completa sicurezza, però la fretta della competizione può far fare degli stupidi errori e questo non deve esistere in montagna. Cioè stupidi errori perché lui ha cominciato a buttarsi giù come un matto, no. Cioè in sicurezza perché era... Ma sì, io l'ho viste quelle immagini, no, sì, ma lui parte come un matto, voleva l'agonismo, voleva era vincere, non lo so. Poi con gli occhiali, fantastico, cioè, con gli occhiali da hipster. Gli occhiali che si riempiono di neve, io che è tenerissimo, sono... Ma però si vede che è concentrato, si vede anche che è appassionato. Poi mi piace Filippo. Lo slancio agonistico, appello a Filippo Facci. Filippo Facci, vieni a raccontarci in diretta qualche retroscena delle tue... scalate, perché lui davvero ha la passione poi della montagna. Ma gli è venuta dopo? No, gli è ritornato l'amore proprio grazie a questo fatto qua. Allora, appello pubblico a Filippo Facci e Daniele Bellasio, sempre le notifiche di tutto. Siccome io voglio diventare famoso, noto e non solo come Cruciani, Cruciani, tu hai le notifiche del... Mi lascio il tempo, lui lo fa, perché io no? Ma ha mangiato un coniglio alla radio, un momento di radio straordinario. Posso fare i complimenti in diretta? È stato molto carino la storia, cioè, del coniglio. Mangiare un coniglio in diretta alla radio, cioè ha fatto una roba pazzo. La Carmelo Bene, un pazzo. Sì, chi non l'avesse sentito, radio24.it, c'è anche la pagina della Zanzara, cosa ha combinato ieri sera Giuseppe Teatro Cruciani. Puro, complimenti. Allora, ma visto andiamo che avanti. Il nostro amico Adriano Attus, direttore creativo del Sole 24 Ore, chiocciola Adriano Attus, ci chiede un video in diretta, magari poi facciamo un Periscope. Ti ricordi quando si usava Periscope? Ma intanto, se volete andare a vedere la sua mostra al MUDEC, a parte le altre parte stupende le che ci sono, al MUDEC, c'è anche Adriano Attus. Numerage. Che meraviglia, che meraviglia. Altre cose che ti sono piaciute questa settimana? Non ci posso credere. Crozza, ti ho segnalato dici... un crozza. Tu che a me dici sempre, ma non è possibile, tu che vuoi crozza, sì, tu che vuoi crozza. Ci voleva questa... Marchini, ci voleva Marchini per perché risvegliare la vena. Anche tu ti riappassionassi esatto, a Maurizio Crozza. Esatto. Ha imitato Arfio, Alfio Marchini. Ormai Arfio è il soprannome penso che sui lui social. Stesso, ormai no, ma anche lui. Sì, ormai si chiama Arfio Marchini, perché si candida sindaco a Roma. Sai, aha, no? Ha certo. Detto che lui si candida, poi dopo se il centrodestra lo appoggia o non lo appoggia, non si sa. Io vado, poi vediamo. E ha ricevuto la sua fantastica imitazione di Crozza. E quindi può vincere, perché quando uno ha. Può vincere, adesso non facciamo endorsement che ci sarà la par condicio fra dei mesi. Non si già sa. Ho paura adesso. Ecco, però diciamo che avere l'imitazione di Crozza è un buon sintomo del successo. Infatti, io spero che prima o poi Crozza faccia tutti e due noi due messi assieme. Guarda, già temo. Allora, imitazione di Alfio Marchini, sto chiamando Arfio, di Alfio Marchini Arfio, da parte Marta, di Maurizio Arfio. Crozza. Eccola qua. Fichissimo, sexy per voi, anzi lo sai, un sindaco mesce playboy. Applausio. Giudici, mi rivolgo a voi. Alfio, Alex Factor per governare Roma. Sentiamo un po' il parere di Elio. Vai. Penso che tu sei giusto per questo paese. Grazie. Tu sei una figura dadaista, ma a me piace la figura dadaista. Sì. Alfio per me è un sì. Ah, grazie. È un parere personale. Grazie. Potrò esprimere un parere personale. Grazie. Intanto vedo che Daniele Bellasio ha brandito. No, me l'hai detto, ha iniziato un periscope. Sono anche struccata, ragazzi. Sono un mostro, vabbè, fa niente. Ma poi dopo, ma che ti frega del trucco? Ma sì, dai. Allora, 17:15 minuti. Questo Alfio Marchini mi ha conquistato al 100%. Spero di ritrovare Crozza in questa puntata di Radio Tube, ma non lo so ancora perché abbiamo una scaletta che può anche variare molto. Però sono le 17:15, quindi sono partiti i cuoricini di Periscope, ma noi dobbiamo mandare il traffico del villaggio che a te piace tanto. Hai detto sì, che ti piace, mi piace il tanto perché io vado tanto in auto e quindi il traffico è imprescindibile. Traffico. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta Radio Tube. Caro Daniele, siamo già un po' entrati nel tema della politica, perché sì, e anche della confusione. Sì, beh, adesso facciamo un po' quelli che spiegano per bene le cose, perché sì, finché si parla divertendosi di televisione ci si può anche concedere un po' di caos, però sulla politica bisogna spiegare bene e anche capire bene, anche perché la politica che passa attraverso i social è sempre molto molto molto interessante. Quante cose sono successe questa settimana? Quanti personaggi, anche insomma di di oggi e di sempre, hanno parlato questa settimana? Tu intanto ti sei appassionato moltissimo a un'uscita di un giovane, da in Italia fino ai 50, giovanissimo. Si può dire come l'abbiamo definita? Non penso, no? Via mail. Non me lo ricordo, ma credo di no, sai. Non pensi, che no, si possa dire? No, ma forse sì. Diciamo un'uscita quasi... cazzo-ta. Ah, però c'era la U. Sì, c'era no, la U. Cioè, esatto. No, un'uscita, diciamo, cazzuta, di quelli con gli attributi. Lo dico io, cazzuta, perché lui non ha con gli attributi il coraggio di dirlo. Del commissario, credo sia, il segretario, insomma, il leader romano del PD, Matteo Orfini, che tanto per cambiare si è ripresa con i social network. Allora, io ho scritto su Twitter che una volta era sempre colpa dei giornalisti, adesso è sempre colpa dei giornalisti, ma anche dei social network, come se i social network fossero il male, no, è colpa, basta. Cos'è che ha detto Orfini? Ce l'avremo da mostrare anche. Mostriamo questa uscita cazzuta, lo dico anch'io. Poi riflettiamoci, ma intanto la mostriamo alla radio. E una delle patologie del Partito Romano è che passa tre quarti del tempo a discutere tra di voi sui social network. Di cazzate. Di cazzate. A parte lo stile dalemiano, sì, ma secondo te una voce un po'... Beh, proprio si vede sì, che... Proprio, ma scusa, ma secondo te, con tutti i problemi del PD romano, le patologie di Roma, una città commissariata col giubileo, la sicurezza, i centurioni vietati, secondo te il problema sono quelli che scrivono... Il problema della Sicilia è il traffico. È il traffico, brava. No, ecco, hai fatto però un editoriale, dai, allora, politico in una battuta. Ma... Allora, facciamo così, non sono assolutamente attendibile per commentare io le notizie della politica, però... Abbiamo io, che meno, ospite. Hai sottinteso. Ah, no, abbiamo un ospite con l'apostrofo, certo. Una ospite, sono molto contenta di averla ancora a Radio Tube, perché ce l'abbiamo avuta un sacco di tempo fa, da un po' che non la l'anno chiamavamo. La scorsa edizione abbiamo Elisa Calessi, buonasera. Notista Elisa. Notista politica di buonasera, Libero. Buonasera, ciao, ciao a tutti. Oh, che meraviglia. Elisa, ciao. Intanto voglio sapere che cosa ti è parso di questa uscita che noi appunto, a noi ha stupito un po'. Ecco. Beh, effettivamente, no, è che la politica oscilla tra il esaltare i social network, Facebook, Twitter, diciamo sull'onda dell'Obamamania di qualche anno fa, e poi invece dal demonizzarli. Mai venuto in mente, quando ho sentito questa battuta di Orfini, quando per la famosa elezione mancata di Prodi, adesso non mi ricordo se Bersani o altri dirigenti dissero anche lì la colpa a Twitter, dicendo insomma questi nuovi parlamentari ascoltano più Twitter che le indicazioni del partito, basta con Twitter. E come giustamente dicevate voi, diceva Daniele, cioè il problema non è lo strumento, il problema è il contenuto. Cioè io temo che se effettivamente militanti e dirigenti del PD romano discutono di cazzate, come ha detto Orfini, su social network, lo fanno anche nei circoli a casa o dove si trovano. Quindi il problema non è i social network, il problema sono le cazzate. Oppure PD. Ecco. Chiedersi come mai. Oppure PD. E perché. Ma senti Elisa, siccome tu segui la politica a livello nazionale un po' ovunque, ora com'è che ti spieghi che un leader come Renzi, che ha fatto del suo essere sindaco una delle caratteristiche principali della sua ascesa politica, non riesce a governare il partito nelle città? Perché qui a Milano, non so se, insomma, come vedi, è un macello, prima Sala, poi di nuovo Pisapia, persino Torino, dove c'è Fassino, c'è qualche problema, Napoli e Roma non ne parliamo, ma secondo te, tu come te lo spieghi? E anche Bologna, aggiungo. Esatto. Ma io me lo spiego con un'annosa questione di cui si parla, diciamo, tra detti e lavori, e cioè il fatto che la rottamazione si è fermata a Roma. A Roma neanche intesa come città, ma come governo. Cioè Renzi, da quando è diventato Presidente del Consiglio, fondamentalmente si è occupato del governo e di rottamare, diciamo, quel che... di provare a rottamare quello che non andava della politica nazionale, dell'azione amministrativa, del governo, e ha totalmente abbandonato il partito. A mio parere per una scelta voluta, consapevole, cioè non è stato un danno collaterale, qualcosa di cui non si è accorto. Secondo me lui ha banalmente valutato che alla fine il suo consenso con gli italiani si misurava sull'azione di governo, non tanto su quello che faceva o non faceva il PD nei territori, anche perché si è reso conto dopo poco che faceva il segretario che rivoltare il PD nei territori era quasi impossibile, cioè o comunque difficilissimo, e quindi non potendo essere ubiquo, essendo la giornata fatta di 24 ore, ha preferito dedicarsi al governo. Solo che questa cosa gli sta scoppiando tra le mani, perché poi prima o poi nelle città si va a votare, e quindi se non hai una classe dirigente all'altezza, poi non è che ti votano perché c'è Renzi, cioè nelle città vogliono vedere chi fa il sindaco. Più prima che poi, peraltro, perché cominciano a essere veramente molto vicine. Volevo leggervi il WhatsApp di Daniela, che mi piace molto, in merito all'uscita di Orfini. Se vuol dire che per stare sui social non lavorano, non leggono i documenti della pubblica amministrazione che governano e non ci mettono la testa come la maggioranza degli italiani, beh, vuol dire che quel politico ha ragione. Ecco, anche una difesa di Orfini, mi piace questa analisi di Daniela, che ci ha mandato via WhatsApp al 349-238-666. Renzi, abbiamo citato Renzi. Sì, perché questa settimana, insomma, ha parlato anche di cose importanti, è stato all'estero, c'è una posizione dell'Italia in politica estera particolare e sottolineata più riprese sulla stampa, chi pro e chi contro, una posizione, non so, come potremmo definirla, Elisa, attendista? Allora, Palazzo Chigi, diciamo, la chiamano prudente, molto prudente. Diciamo che sì, è una posizione, diciamo, di totale non interventismo, di grande cautela, di non seguire la Francia. In questo aiutato, devo dire, dall'amministrazione Obama, cioè dalla posizione degli Stati Uniti, che è un po' questa, ovviamente con differenze, perché stiamo parlando di due potenze molto diverse. Però, diciamo, all'assist di Obama, cioè può dire, ragazzi, io seguo la linea del Presidente degli Stati Uniti, mica dell'ultimo, dell'ultimo capo di Stato. E effettivamente ha una linea prudente, cioè a differenza di molti altri capi di Stato, no, ha deciso di non aumentare l'impegno dei nostri militari, soprattutto in Siria. C'è da dire, come lui ha sottolineato dopo l'incontro con Hollande, che l'Italia fa già parte della coalizione anti ISIS, anti Daesh, però non con uno status militare, cioè noi, diciamo, offriamo più un sostegno logistico, quindi non buttiamo giù le bombe, insomma, e ha deciso di mantenere questa posizione. Vogliamo sentire come l'ha spiegato? Sentiamo Matteo Renzi. Sì. Per ogni intervento sulla cyber security deve crescere una startup. Per ogni telecamera nuova che viene installata agli angoli delle nostre strade vogliamo un videomaker o un regista teatrale che sperimenti. Per ogni investimento in polizia ci deve essere uno sforzo maggiore di pulizia nelle nostre periferie. Per ogni caserma ristrutturata e restituita ai cittadini un museo più accogliente. Per ogni mezzo blindato in più alle nostre forze dell'ordine un campo da calcetto. per ogni e questo in realtà era Renzi che parlava di sicurezza. Eh sì, sì, no, perché sì, lui sì, dice sì. Più cultura, più sicurezza sì, ma appunto l'ha buttata con il suo riconosciuto modo di trovare parole chiare, anche quando la posizione magari non è così chiarissima, su un altro campo, quello degli investimenti in cultura. Interessante questa cosa che dicevi, Elisa, quindi secondo te è più politica internazionale, quindi ascoltare l'alleato americano, che non la tradizionale linea, qualcuno ha detto, andreottiana dell'Italia in politica estera? No, diciamo che lui segue la tradizionale linea italiana, sfruttando questa volta anche una posizione dell'America che è molto diversa dal passato, da Bush, da altre. Quindi diciamo utilizza Obama per sostenere una posizione tradizionalmente italiana, che però bisogna dire questo a favore di Renzi, un po' tutti gli analisti militari e anche insomma i consiglieri dei vari presidenti di Stato di tutti i paesi dell'Europa riconoscono che però la linea interventista in Iraq e soprattutto in Libia è stata fallimentare. Cioè qui adesso non vorrei infilarmi in questo ginepra, però cioè il punto è che lì la situazione non si risolve certo con le bombe, servono le bombe ma non basta, e questo devo dire lo riconoscono tutti, anche quelli che mandano gli aerei per sganciare le bombe. Il problema è che nessuno al momento è in grado di dire o di meglio ancora di fare in modo che sia chiaro che cosa si fa dopo, perché non ci sono alleati, non ci sono forze musulmane in grado di con cui allearsi per il dopo. Questo è il grosso problema, e quindi, giusto, anche perché come risolvere questo problema, giustamente Renzi dice ma scusate, perché mi devo infilare in una cosa che è costosissima economicamente. Certo. Può portare solo un danno di consenso, perché comunque l'Italia non è un paese pacifista, gli italiani non hanno voglia di andare in guerra, e poi al primo morto italiano gli scoppia un macello, ovviamente. Devo dire che politica interna e politica estera sono ovviamente intrecciate in ogni modo. A chi tocca occuparsi di politica interna come Elisa, tocca ormai studiare anche, certo, tutto ciò che riguarda gli esteri più che mai in questo periodo. Elisa, avremo moltissime altre cose da chiederti, quindi ti chiamiamo ancora, perché l'argomento non è assolutamente esaurito. Tra l'altro noi parleremo tra poco proprio di sicurezza, esatto, perché è un altro degli argomenti caldi, caldissimi di questa settimana. Allora io ringrazio tantissimo Elisa Calessi per essere stata con noi, notista politica di Libero. Su Twitter è attivissima, anche sulla politica estera. Per esempio, certo, ha ricordato che ci stiamo dimenticando di alcuni bambini che finiscono la loro vita nel dramma del tentativo di arrivare in paesi più sicuri, ma noi in quest'ultimo periodo siamo un po' distratti. Siamo distratti, e sì, magari mancano le foto. Morti, sì. L'altro giorno sono morti, mi ha colpito perché tutti i giorni muoiono bambini, ovviamente in guerra e non. Però l'altro giorno sono morti tre bambini che scappavano dalla Siria, no, con queste ondate di rifugiati, esattamente al largo di quella spiaggia dove tutti noi fummo colpiti dalla foto di quel bambino Aylan, vi ricordate? Certo. Quindi esattamente nello stesso luogo, eppure non mi sembra che ci sia stato alcun clamore. Giusto richiamo, cioè, grazie Elisa. Luogo e stessa situazione. Grazie Elisa. Grazie Elisa per essere stata con noi. Quindi noi davvero poi tra poco parliamo di sicurezza con un amico, l'avevo anticipato prima, tornerà con noi Enrico Pagliarini, con un'esperta, un argomento molto tosto. Raccontiamo come si può fare la guerra con i computer. Sì, e come ci si può difendere, insomma, molto molto molto tosto. A tra poco. State ascoltando un programma offerto da Creo Kitchens. Finalmente la cucina di qualità, ora alla portata di tutti. Gruppo Lube. Radio Tube. ormai qualunque tipo di strumento supportato dalla rete o qualunque strumento, da quelli che consentono di scaricare la musica, quelli che consentono di, hanno all'atere diciamo una chat, e quella chat può essere utilizzata anche per scambiare informazioni che non hanno niente a che vedere con l'oggetto per cui è ipotizzata quella chat, e questo naturalmente crea molte più possibilità che devono essere fronteggiate con nuove tecnologie. Allora, queste dichiarazioni sulla sicurezza sono arrivate qualche giorno fa. Era il ministro della giustizia Andrea Orlando del PD, perché si sono diffuse tante voci che cercavano di interpretare tutte le indiscrezioni trapelate in rete, non solo sui metodi di comunicazione. Beh, uno degli attentatori di Parigi, una delle ultime cose che fa prima di entrare, diciamo così, in azione, è scrivere un SMS in cui dice: adesso stiamo partendo, siamo fuori linea, non risponderemo più. Come c'è un bellissimo pezzo sull'ultimo numero dell'Economist sulla sicurezza e la guerra informatica. E poi c'è Anonymous che ha detto: faremo noi la guerra a ISIS attraverso i nostri metodi, quindi gli attacchi informatici. Anonymous. Anzi, che allora sarebbe... Ascoltiamolo Anonymous. Ah, certo, ascoltiamo. Se l'abbiamo. Anonymous, ce l'abbiamo. Saluti cittadini del mondo, noi siamo Anonymous. All'indomani di venerdì 13 novembre 2015, la Francia si è risvegliata scioccata per gli eventi terroristici che hanno colpito la capitale. Per prima cosa, vogliamo esprimere il nostro cordoglio e la nostra solidarietà alle vittime, ai feriti e ai loro familiari. Ovviamente Anonymous non ha nessuna voce, è una voce elettronica, Anonymous non ha nessuna identità. Allora, per cercare di capire chi è Anonymous, o meglio, quali sono le realtà che si possono nascondere dietro Anonymous e come può combattere questa guerra, che non è una guerra di bombe, di armi, di sangue, ma una guerra tecnologica che questa entità Anonymous ha dichiarato contro l'ISIS. Torniamo a chiamare il nostro amico e collega Enrico Pagliarini, che è un ospite fisso, è uno dei co-conduttori del Sabato del Villaggio, oltre che, lo sapete, il conduttore 2024 e super esperto di questi temi. Enrico, sei ancora con noi? Siamo qui, buonasera a tutti. Ciao Enrico. Allora, ciao. Enrico, è difficilissimo spiegare questa cosa perché Anonymous in realtà è chi è? Non sarebbe illegale peraltro. Allora, è una, diciamo che è una sorta di marchio che ha coalizzato migliaia di persone, di gruppi che da sempre esistono sul web. Stiamo parlando di activism, che è una crasi, un mix tra l'attivismo, e qui possiamo tornare indietro alle proteste degli anni 60, insomma, gli attivisti esistono da sempre, e gli hacker, quindi il fenomeno dell'hacking, che è tipico di internet, quello di cercare di smontare, bucare le reti, i siti internet. Sono dei gruppi, effettivamente è un'aggregazione un po' anarchica, non c'è una struttura. I gruppi che fanno riferimento ad Anonymous si battono, hanno un credo, si battono per i diritti umani, spesso per il diritto a potersi esprimere liberamente, cioè tutte le volte che vedono qualcosa che ha a che fare con la censura diventano pazzi, e questo è un po' il loro credo, e tutte le volte che ci sono fenomeni di questo tipo lanciano delle campagne in maniera un po' all'inizio disordinata, poi tutti questi gruppi, tutte queste persone si coalizzano verso un orizzonte. Difficile capire che ci stia dietro. Ad esempio, se noi vogliamo seguire Anonymous su Twitter, non esiste un account Twitter, ne esistono vari. Certo, non esistono centinaia, ce ne sono alcuni che potremmo identificare come quelli più ufficiali, però non è una struttura gerarchica e che ha un leader. È una struttura anonima oltretutto, ma che è molto frammentata sulla rete internet. Enrico, stiamo parlando di una cosa qualche... che ha 10 anni circa. Hai avuto qualche contatto con qualche Anonymous? È anche sì, difficile sì. Utilizzare un linguaggio corretto, perché potrebbe essere chiunque, uno, tanti, centomila, certo. No? Sì, potrebbe essere uno che si spaccia per Anonymous. Dunque, io ho intervistato uno degli anonimi nel 2011, quando questo fenomeno era ancora... parliamo di una cosa che è nata nel 2004, che è diventata famosa attorno al 2008, però nel 2011 non erano ancora famosissime. Comunque, se uno vuole andare, ci sono alcune chat anonime su internet, tutti possono entrare con un nickname e possono scambiare messaggi con le persone che fanno riferimento. Direi che parlare in chat è abbastanza semplice, tutto sommato. Intervistarli è un po' più complicato, dopodiché è difficile poi essere certi che chi è dietro abbia una conoscenza di tutto quello che accade all'interno di Anonymous. Comunque nel 2011 penso che sia ancora disponibile in rete sul nostro sito internet, feci questa intervista, poi fatta una non mi sono più preoccupato di riintervistarli. potremmo pensarci in questi sono curiosa invece di sapere che tipo di contatti ha avuto con Anonymous l'autrice di Dentro Anonymous, Viaggio nelle legioni dei cyberattivisti, Carola Frediani. Buonasera Carola. Buonasera. Sì, buonasera a voi. Buonasera. Ma allora, vogliamo capire se si può davvero fare la guerra a ISIS con gli strumenti di Anonymous, se Anonymous davvero può farla. Beh, dipende cosa si intende per guerra. Io non userei mai l'espressione cyberguerra in questo caso, perché è un'espressione che allude a una tipologia di attacco informatico di un altro livello. È una guerra di comunicazione, che si esprime anche attraverso gli attacchi informatici che mirano ad esempio a mandare offline siti e forum e jihadisti che puntano a far sospendere profili Twitter considerati pro-ISIS, spesso attraverso semplicemente sistemi di segnalazione automatici e in massa fatti a Twitter. Quindi è una guerra che si gioca molto sul piano appunto della comunicazione, una guerra psicologica, diciamo. In questo Anonymous è sempre stata molto brava, cioè è stata molto brava a giocare coi media, a fare campagne e a portare l'attenzione su qualcosa, ed è anche molto brava a prendere in giro e quindi in qualche modo a sviluppare, se vogliamo, una contronarrativa rispetto all'ISIS, che non cede necessariamente alla paura, ma si pone in modo, come dire, aggressivo e anche però appunto irriverente nei suoi confronti. Carola, tu hai parlato di contronarrativa, c'è anche però il linguaggio della politica. Abbiamo sentito poco fa il ministro della giustizia Andrea Orlando che si è riferito a quella che è circolata tantissimo in questo periodo, cioè lui non menzionava chiaramente il fatto, però insomma si capiva che tra le righe c'era la questione secondo cui a un certo punto pareva certo che gli attentatori di Parigi avessero usato per comunicare tra loro la PlayStation. Vero, falso, leggenda secondo te, Carola? Falso. Allora, intanto Pagliarini notizia, dice falso. Esatto, cioè una notizia assolutamente non confermata che si è sviluppata in seguito tra l'altro a un errore giornalistico, un giornalista che aveva inizialmente riferito che appunto uno degli attentatori aveva una PlayStation e alle parole del ministro interno belga che nei giorni però precedenti agli attentati aveva menzionato la PlayStation come uno dei possibili strumenti, canali di comunicazione, no, ulteriori che potevano anche essere utilizzati. Quindi diciamo si è creata un po' da questo. Cioè lui aveva detto uno aveva la PlayStation e questo giornalista ha fatto 2 più 2, 4, ma non era così? Sì. No, allo stato attuale... Cioè non era così, non è certo che assolutamente... Se noi parliamo di quello che sappiamo, non è così. In questo momento le informazioni che ci sono non possono confermare una simile notizia. E poi voglio dire... io sinceramente non capisco anche molto questa attenzione improvvisa verso, no, la PlayStation, perché se guardiamo gli strumenti di comunicazione che sono a disposizione oggi, sono tali, così numerosi, su così tante piattaforme, cioè io posso usare un'infinità di app, posso usare una mail sul mio computer, ecco, però... cifrata con PGP. Carola, però passa anche attraverso in qualche modo la supervisione, le intercettazioni di questi strumenti, la nostra battaglia per la sicurezza, la nostra... Dipende. Chiedo appunto, è una domanda, penso che molti se lo facciano, come se la pongano come domanda. Allora, io vi distinguerei fra una, come diciamo, chiamiamola supervisione, intercettazione e sorveglianza mirata, in cui tu cerchi di seguire delle piste investigative chiare, cioè o comunque no, di seguire dei sospettati, quindi di approfondire, e questa è una cosa. La sorveglianza invece di dire siccome abbiamo questa, diciamo, paura di fondo, dobbiamo quindi intercettare tutto quello che è possibile, che passa in automatico, perché così ce lo teniamo lì, e si crea invece il fenomeno del meccanismo dell'ago nel pagliaio, in cui tu hai una mole di big data, di grandi quantità di dati, ma che alla fine non si risolvono, anzi rischiano di complicarsi. E poi posso aggiungere, Enrico, certo. E poi perché qui sta passando veramente il concetto che dobbiamo rinunciare alla privacy, che è una delle conquiste delle società occidentali per combattere il terrorismo. Ma guardate che i terroristi, e questo lo dicono tutti gli esperti, mica dicono andiamo a mettere la bomba nel tal posto, anche in sistemi cifrati che poi sappiamo che alcune intelligence del mondo riescono a bucare e intercettare. Questi dicono domani mattina andiamo a comprare i fiori al mercato. Beh, insomma, una grande tradizione l'otto. Quindi bisogna lavorare con degli infiltrati. Dopodiché, certo, gli strumenti elettronici possono servire, ma la sorveglianza di massa, questo lo dicono moltissimi esperti, poi c'è un dibattito incredibile, crea più rumore che segnale. serve molto a poco e io mi stupisco che sia Renzi che il ministro Orlando dicano queste cose, perché o sono mal consigliati oppure c'è del dolo, e questa è una cosa abbastanza grave. Allora io poi voglio chiedere intanto complimenti a Carola, arrivano anche via SMS. Io controllo gli SMS, no, mentre tra l'altro tu un bel messaggio WhatsApp. Che è arrivato da Sveva, che dice bravi che chiamate anche esperte, non solo esperti. Sveva, io ci tengo tantissimo personalmente alle esperte donne, detto tra noi femmine, parte ecco. Radio YouTube, io te l'ho sponsorizzata, esatto. Povero Pagliarini, infatti, esatto. La voce rassicurante e l'analisi acuta di Pagliarini, vabbè, allora, solo perché ragazzi, maschio, vabbè. Solo un pochino di pausa, 17:45, traffico, e poi voglio chiedere a Carola cosa pensa proprio di questa affermazione di Enrico Pagliarini, ma tra pochissimo. Nuova Audi A4, scopritela negli showroom Audi e su audi.it. vi presenta YouTube. Stiamo cercando di avere regole ancora più puntuali, più efficaci. Ecco perché stiamo cercando di insistere sulla cyber security. Ecco perché stiamo cercando di valorizzare di più e meglio le nostre forze dell'ordine, il nostro contributo militare, il nostro contributo alla sicurezza. Tutte cose giustissime da fare, le facciamo. Ma accanto a questo c'è bisogno di una reazione delle nostre comunità. Noi non siamo delle donne e degli uomini rinchiusi dai muri, noi siamo delle comunità. E questo era il premier Matteo Renzi sulla cyber security a Firenze, è tornato sull'argomento. Volevo chiedere, visto che è stato molto chiaro Enrico Pagliarini, che ha detto non esagerate, no? Cioè, ecco, se c'è una pista di indagine, lo strumento giusto, Enrico, sto sintetizzando abbastanza bene? Sì, una delle cose che dicono molto gli esperti è lavorare con gli infiltrati per individuare dove sono le aree di pericolo, dopodiché l'intelligenza artificiale, tutto quello che possiamo fare con la tecnologia va usato, ma è la sorveglianza di massa che è un falso mito. Volevo chiedere a Carola Frediani, autrice, lo ripeto, di Dentro Anonymous, Viaggio nelle legioni dei cyberattivisti, cosa ne pensi, Carola? Io credo che la politica e i politici adesso abbiano molto bisogno di essere ben consigliati, ben guidati, perché è un altro mondo. Sì, poi a volte lanciano delle parole magari rassicuranti oppure terrorizzanti, dietro al quale però non si capisce che cosa ci sia. Cyber security. Guarda, io sono assolutamente d'accordo con quello che diceva prima Enrico. E sì, la cyber security, per carità, è una cosa importante, però è vero che se noi esaminiamo anche la vicenda di Parigi, quella che è mancata è l'intelligence umana, cioè non la raccolta di big data o la sorveglianza di massa, ma la capacità di, cioè, queste persone erano già note alle autorità, si conoscevano fra di loro, si incontravano al bar. Hanno usato anche Facebook, peraltro, non solo hanno usato gli SMS. C'era un articolo molto interessante, un reportage del Financial Times di qualche giorno fa, che raccontava come il Belgio sia diventato una sorta anche di bazar del commercio di armi. Quindi voglio dire. Ecco, detto questo, però, diciamo anche che forse tra i cittadini la discussione e il dibattito è secondo me anche una sorta di tentazione di dire ma sì, io rinuncio a un minimo della mia privacy in cambio di un po' più di sicurezza, diciamo è un elemento da tenere in considerazione visto anche quello che è successo, no? È un ragionamento però in questo caso fallace, cioè non porta al risultato, senza contare senza entrare nemmeno nel merito della questione che appunto è una lesione stessa dei nostri diritti, perché oggi comunque il diritto, cioè a non essere sorvegliati, cioè, se non per una se non perché sospettati di un reato, cioè, è un diritto umano fondamentale, perché quello che in una società in cui tutti si sentono o sanno di poter essere sorvegliati, non è la questione del non nulla da nascondere, è una società che comunque nel tempo logora la stessa libertà di espressione delle persone. Su questo ci sono tantissimi studi, cioè, c'è un ampio dibattito. Certo, difficilissimo equilibrio da trovare. Sì, assolutamente. Io adesso mi scarico perché voglio leggere Dentro Anonymous, viaggio nelle legioni dei cyberattivisti. Non sto facendo pubblicità, è che voglio proprio saperne di più, perché sì, no, è un tutti argomento, vogliono saperne di più di Anonymous. È un argomento cui... che mi spaventa. La maschera, dico. La maschera, lo sì, diciamo per farlo capire anche alle persone che si ricordano soprattutto le immagini, la maschera. Grazie. Grazie a Carola Frediani per essere stata grazie con noi. E grazie, grazie anche Enrico al nostro Pagliarini. Enrico Pagliarini. Ciao, ciao poi, Enrico. La prossima volta torniamo su Anonymous perché parliamo anche della maschera che loro usano, che certo, è quella di Guy Fawkes, che era famoso. Bisogna raccontare un po' la storia, poi ci torniamo. Grazie, grazie Enrico. Ciao, ciao, ciao, noi. Ciao. Ecco, no, qua abbiamo qualcuno. Abbiamo, sentiamo, aspetta, ce l'abbiamo la sorpresa. No, no, la linea. Aspetta, aspetta, sentiamo qua. Hello, it's me. I was wondering if after all these years would like to me. Allora, hello, abbiamo sentito. Ma che bravo questo cantante. Però no, è questo cantante. No, ma è un super ospite, ragazzi. Sì, ragazzi, abbiamo un super ospite. Posso altro dire che... una cosa? Merda, merda, merda. No, ma non si può dire, no, siamo si in dice, radio. Si dice merda, merda, merda, William Prestigiacomo. Buonasera, William. Ciao, ciao a tutti. Che, allora, una star europea. Spiega allora, bene, Marta. Allora, questa hello di Adele sì, è cantata, che è la canzone che ormai... Beh, a parte che Adele, esatto, 3 milioni, no? Una settimana. È vabbè, stata cantata da William Prestigiacomo, che sì, questa sera, William, è questa sera, è tra poco, sì, la sì, finale... Poco, la finale di The Voice of Poland. Cioè, mitico. Dopo i cervelli in fuga, le voci in fuga, William. No, i talenti, basta i talenti. Ma sei un mito, spiegaci, raccontaci. Adesso lo dico agli ascoltatori, lui era impegnato nelle prove, siamo riusciti a rapirlo, ovviamente immagino sì, che sia un attimo di ansia e di prova. Ho cercato un camerino per mi hanno visto. Allora, 33 anni, siciliano, sì, palermitano sì, per essere precisi, sì, arrivato in Polonia perché ti sei sposato in Polonia. Esatto. E cantante, e ti cantante, sei... beh, straordinario, The Voice of Poland, quindi un italiano sì, The Voice of Poland. Cosa canterai stasera? Stasera è un segreto, vabbè che vai in Italia, canterò una canzone italiana di Eros Ramazzotti. Bene, insieme al mio coach, sì, fantastico, e poi canterò il mio solo, che sarà Isn't She Lovely di Stevie Wonder. Wow, una canzone che amo e che fra l'altro dedico a mia figlia Abigail, che ha 6 mesi. Nome stupendo. Senti, ma quanti siete in finale? Me. Adesso siamo 4. Ah, beh, 4 pochissimi. Sai che sono emozionata io per William, sì, in questo momento. Cioè, qui tu sfidi, no, guarda, 3 polacchi, fantastico, immagino. Sì, sono tutti polacchi. Sì, tutti polacchi. Io ho imparato un po'. Effettivamente ci vuole il miracolo per parlare polacco, però ci sto riuscendo. Ma come è stato preso l'Italia? Beh, ti avranno detto, vabbè, è facile che canti bene italiano. No, com'è l'atteggiamento nei tuoi confronti? Riguardo alla canzone o riguardo a me? A te. Riguardo a me, sì, vabbè, perché tutti amano qui l'Italia, amano gli italiani, però diciamo che mi sono dovuto far valere perché qui c'è tanta gente brava che canta. Certo. Quindi, insomma, anzi, volevano darmi una canzone in polacco, io già stavo partendo, no, per impararla, poi alla fine l'hanno cambiata. Grazie a Dio, cioè, non so cosa è successo, non ho dato un altro in inglese la volta scorsa, sono andato avanti, oddio, posso impararlo, che ormai lo parlicchio il polacco, però i ritmi qui sono una settimana dopo l'altra, quindi hai 3 giorni per imparare 3 canzoni e non è facile. Io voglio dare il tuo account di Twitter, che beh, certo, è @will_thevoice, siccome The è un voice po' complicato, lo twitto che così. Ma andrà così in streaming la trasmissione, si potrà vedere da qualche parte? Adesso cerchiamo, c'è uno streaming di The Voice of Poland. Ma se lo trovi, mettilo su Twitter, diccelo. Dai, così cerchiamo di seguirti, William. Va bene, allora, va bene, va bene. Io lo ridico: merda, merda, merda, che vada come deve andare. poi lo richiamiamo dopo per sapere come è andata. Tanto è comunque... comunque complimenti, perché comunque in finale alla grande, ragazzi. Forza William. A presto. Grazie per essere stato con noi. Ciao, grandissimo. Che bello. Un ragazzo che si fa valere in Polonia, The Voice of Poland, finalista. Che è un grandissimo paese, peraltro. Quindi è un mercato tosto, anche discograficamente. Va bene, ma allora, noi dobbiamo salutare. Dobbiamo ringraziare Cristian Goldoni in redazione, Paolo Corleoni in regia. Stramitico. Oggi, magie. L'appuntamento al prossimo sabato, ancora con Radio Tube, ancora tu sempre insieme. Sì, ma sabati. Prima alle 15 c'è anche il sabato del villaggio, è presente? Condotto da quella ragazza, si farà. Non la conosco, si farà sabato prossimo.